Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento questa settimana con l'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e nuovamente ho il piacere di avere con me al telefono Gioia Barbato, benvenuta. Grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, oggi tocchiamo un argomento che è assolutamente importante, anche perché in questi tempi vediamo anche degli spot pubblicitari che ci parlano di cambiare il fornitore, che ne so, o del gas o della corrente elettrica. Ci sono molti fornitori e magari non sappiamo anche quale scegliere. Esatto, diciamo che questo è tutta la conseguenza di una modifica rivoluzionaria che è avvenuta ancora nel lontano 2000, ma che sta dando i propri frutti solamente in quest'ultimo periodo, ovvero parliamo di liberalizzazione del servizio di gas ed energia. Infatti facciamo una piccola premessa: una volta e anche adesso sulle nostre bollette vediamo certe diciture come ad esempio servizio di maggior tutela. Ecco, questo delinea il sistema conservativo, ovvero quel sistema che c'era una volta prima della liberalizzazione di queste tariffe e della liberalizzazione di questi servizi, dove tutte le tariffe che venivano messe a disposizione dell'utente erano, per così dire, vincolate, ovvero vincolate a certi limiti, a certi limiti di prezzo e a certi limiti di servizio. Ora, a seguito del 2000, in particolare in quest'ultimo periodo, si vanno avanti tutte quelle offerte cosiddette liberalizzate. E tanto per intenderci, per fare un esempio pratico, è quando noi vediamo nella nostra bolletta servizio del mercato libero. Ecco, questi nuovi servizi non sono altro che frutto del progresso, ovvero di nuove tariffe che vengono messe a disposizione anche da parte di nuovi distributori che tentano di offrire un servizio ad un costo più competitivo rispetto ai distributori, a quelli che erano i servizi tradizionali messi a disposizione dai cosiddetti distributori tradizionali, quelli di una volta, quelli che noi tutti conosciamo. Bisogna avere paura di o no? Cioè, si può pensare di cambiare il fornitore dell'energia elettrica o del gas? Sì, allora si può cambiare, però come tutte le cose bisogna farle in maniera abbastanza cauta. Insomma, diciamo che poi altrimenti si rischia di fare tutti quegli errori che si facevano una volta quando sono state liberalizzate anche le compagnie telefoniche. Sì. Quindi è normale che ci sono dei distributori, soprattutto quelli nuovi, che mettono a disposizione delle tariffe più competitive rispetto ai distributori tradizionali, però bisogna sempre leggere le condizioni contrattuali per evitare che poi ci propino un tipo di contratto che si protraga nel tempo, quindi la classica offerta promozionale che poi mi vincola però per 2 o 3 anni senza poter cedere anticipatamente. E poi bisogna anche capire se quel servizio è valido o meno, quindi un tipo di tariffa conveniente dal punto di vista economico, ma anche cercare di capire se quel tipo di offerta è qualitativamente valida rispetto alle nostre caratteristiche. Ecco, quindi noi ricordiamo quello che è il sito utile, insomma, per capire anche questi tipi di bollette, quelle che sono anche le voci che vengono indicate insomma, per caratterizzare un tipo di offerta promozionale, che sono messe a disposizione nel sito Soft Tariffe, che è un sito che ci permette appunto di capire e di studiare nel dettaglio quelle che sono le tariffe che ci propongono. E poi, come sempre, diamo sempre il consiglio di leggere bene quelle che sono le condizioni contrattuali che ci propongono e tutto l'incartamento utile che gira intorno all'offerta che propongono, ecco. Ecco, mai dare nulla per scontato, insomma. Esatto, e leggere sempre bene tutte le condizioni contrattuali, informarsi sempre bene di tutto. So che è noioso, però alla lunga importa solo che beneficio. Vabbè. E quindi, insomma, armiamoci di pazienza, un bel paio di occhiali anche per leggere le cose in piccolo se ci sono, e poi esatto, scegliere adeguatamente il gestore che ci può comunque far risparmiare. E tu dicevi sostariffe.it, il sito da andare, sì, a vedere. Esatto, questo è un sito che ci aiuta, insomma, a comprendere quella che è la nostra bolletta e a capire quella che è l'offerta conveniente, insomma, in base alle esigenze di ognuno, perché poi ovviamente poi ognuno ha le sue esigenze. esigenze, ognuno ha le sue fasce orarie di punte, quindi non si può neanche dare un consiglio generalizzato, ma ognuno poi riuscirà a calibrare in base alle proprie esigenze l'offerta più vantaggiosa. Ecco. Sì, poi a dir la verità anche ogni società ha più offerte proprio per venire incontro alle esigenze del cliente, quindi insomma cercate bene prima di cambiare a caso la prima offerta, insomma informatevi perché magari ce ne potrebbero essere di migliori. Io ringrazio quindi Gioia Barbato dell'Adico di Mestre, l'appuntamento con te è rinnovato la settimana prossima. Va bene, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie. Va bene, grazie a te, buona giornata. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.